C'è il rettore che dichiara guerra agli assenteisti. L'assenteismo esiste e vorrei anche capire se ci sono docenti che hanno degli incarichi retribuiti non autorizzati. E c'è l'azienda che regala biciclette ai suoi dipendenti. La risposta è stata positiva, il grosso usa la bicicletta per venire in ufficio. Io credo che una città come Milano la bicicletta sia un mezzo di trasporto più rapido, più veloce, più comodo. Persone che ci insegnano che un paese migliore si può fare davvero. Noi vi raccontiamo le storie di quelli che ci provano. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto ogni domenica a mezzogiorno su Radio 24.